Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se oggi possiamo constatare che il peggio è alle nostre spalle, e ovviamente lo affermo con tutta la dovuta prudenza, lo dobbiamo ai nostri cittadini, ai sacrifici che hanno compiuto in queste settimane, durante le quali è stato loro chiesto di modificare profondamente le loro abitudini di vita. Forse non tutti avrebbero allora assunto decisioni così sofferte, suscettibili di incidere su alcuni dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione. Questo ha detto tra i vari passaggi nel suo discorso, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi il Presidente del Consiglio Conte durante l'informativa in Parlamento, nella quale ha parlato, diciamo, in modo più o meno generale, riassuntivo di questa fase 2 da vari punti di vista. Ha detto il peggio, dicendolo con prudenza, è alle spalle, però ci vuole tanta cautela adesso nella fase 2. Ha toccato tanti punti, ha anche detto che le banche dovrebbero fare di più, che per le famiglie e le imprese anche il governo stesso vuole fare di più, e per esempio fra le varie cose ha anche invitato a fare le vacanze in Italia quest'estate, sperando che vacanze si possano fare. E poi ha anche annunciato a giorni l'attuazione, insomma, dell'app per il tracciamento dei contagi immuni, no? Di cui abbiamo parlato tante volte anche qui a Effetto Notte, e ne parleremo con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, con la quale parleremo anche di tante altre cose che riguardano questo momento, questa fase 2 nel suo complesso da un punto di vista soprattutto naturalmente sanitario. Poi ci addentreremo in questa giornata politica particolarmente vivace, soprattutto per la rissa che c'è stata alla Camera per l'attacco da parte di un deputato del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, nei confronti della gestione da parte della Lombardia dell'emergenza coronavirus, con l'ira della Lega, anche della stessa compagine governativa sono arrivate alcune critiche ai toni ritenuti eccessivi di Ricciardi. Comunque poi ce ne occuperemo, e di molte altre cose che non sto anticiparvi, qualcosina però ve la dico perché l'ho anche anticipata su Effetto Notte. A proposito dei rincari dei prezzi di bar, ristoranti, del caffè si è parlato in questi giorni, ma anche del carrello della spesa, eccetera, per rifarsi un po' anche delle spese di sanificazione e dei distanziamenti tra i tavoli dei ristoranti. Da una parte FIPE, che sentiremo, la federazione degli esercenti, ha detto che queste sono speculazioni, è tutto un polverone, mentre Cotacons continua a dire vi faremo sapere per dettaglio tutti i rincari e faremo una serie di esempi. Quindi ci sarà anche questo dibattito qui a Effetto Notte. Se volete, lo sapete, come sempre ci sono possibilità di commentare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666, il Twitter è Roby con la Y-netta bassa Giordano. Il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, le vittime sono 156, ma in 9 regioni sono stati registrati 0 decessi. Tuttavia, secondo l'INPS, i dati sui morti della Protezione Civile sono poco attendibili, perché per le stime sarebbero 20.000 in più. L'impatto dell'emergenza sull'economia, boom ad aprile della cassa integrazione, in un mese numeri come in un anno intero. Rissa alla Camera, il deputato 5 Stelle Ricciardi attacca la gestione dell'emergenza della Lombardia, ira della Lega. Il monito di Conte, il peggio è alle spalle, ma non è ancora tempo della movida, e poi l'appello del Presidente del Consiglio al sistema bancario perché faccia di più. E a giorni l'app Immuni. Decreto rilancio e zone rosse escluse, critiche delle regioni, Zaia annuncia ricorso, ma Di Maio chiede correzioni in Parlamento. Libia, sale la tensione dopo l'arrivo di 8 jet russi a fianco di Haftar, armamenti, passo indietro di Trump dal trattato Open Skies. Partiamo quindi, come sempre, dai dati forniti dalla Protezione Civile quotidianamente sul coronavirus in Italia. Sono 228.006 i contagiati totali per il coronavirus in Italia dall'inizio, 642 contagi più di ieri, di questi 86.091 sono in Lombardia, che ne fa registrare 316 in più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti, quindi questo dei 228.006 è un dato complessivo dall'inizio del coronavirus in Italia. Nello specifico sono 60.960 i malati di coronavirus nel nostro paese, e cioè 1.792 meno di ieri. Le vittime del coronavirus sono 156 nelle ultime 24 ore, quindi in totale raggiungono la cifra di 32.486 e sono saliti a 134.560 invece i guariti e i dimessi per il coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 2.278. Ma l'INPS fa sapere che i morti nel nostro paese sono stati 156.429, cioè 46.909 in più rispetto a quelli attesi. A nord i decessi sono aumentati dell'84%, dice l'INPS, rispetto alla media degli anni precedenti, dell'11% al centro e del 5% al sud. Lo rivela appunto l'INPS nello studio analisi della mortalità nel periodo di epidemia da Covid-19. Intanto arriva dagli esperti del National Institute of Health degli Stati Uniti la conferma che l'incubazione del nuovo coronavirus dura fino a 14 giorni, vale a dire che questo è il periodo che in media trascorre dal momento in cui avviene l'infezione alla comparsa dei sintomi. Il risultato pubblicato sul sito MedRxiv è in attesa di validazione da parte di una rivista scientifica internazionale, ma potrà aiutare a organizzare al meglio sia la sorveglianza in vista di eventuali nuove ondate epidemiche, sia la quarantena. E parliamo degli effetti negativi della crisi del coronavirus sull'economia. Sono di oggi i dati dell'INPS sul mese di aprile, dati indicativi di come l'epidemia abbia messo a terra famiglie e imprese. Ad appena 48 ore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Rilancio arrivano i dati INPS sul maxi pagamento della seconda rata delle indennità a favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori e degli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. L'Istituto di Previdenza fa sapere che ha autorizzato ad aprile oltre 772 milioni di ore di cassa integrazione, aumentate di circa il 3.000% rispetto allo stesso periodo del 2019. In calo la straordinaria di circa il 30%, ma è boom della cassa ordinaria e di quella in deroga legate all'emergenza Covid, che riguarda ben il 98% delle ore autorizzate. A marzo le domande di disoccupazione sono cresciute del 37,2% rispetto a un anno fa. Gli accrediti sono stati effettuati sui conti correnti e sulle carte dotate di IBAN dei beneficiari. Altri 400.000 seguono venerdì 22 maggio e altri 2 milioni lunedì 25 maggio. La distribuzione in tre tranche per vincoli tecnici della gestione di non oltre 2,2 milioni di bonifici al giorno, considerando anche i pregressi, martedì prossimo i versamenti cash a chi ne ha fatto richiesta, documenti alla mano, presso qualsiasi sportello postale del territorio nazionale. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi, dicevo, intervento in Parlamento del Presidente del Consiglio Conte sulla fase 2, appello a fare le ferie in Italia per dare un contributo all'economia del Paese e alle banche per aiutare il sistema del credito. Non è ancora questo il tempo dei parti, delle movide, degli assembramenti. Occorre fare attenzione. Un appello rivolto soprattutto ai giovani, quello di Conte. Se il peggio è alle spalle, questo è grazie all'impegno del paese durante il lockdown. Ma occorre ancora prudenza, dice il Premier e annuncia da lunedì test sierologici volontari su campione. Quanto alla crisi economica, è una prova molto dura dalla quale ci rialzeremo in fretta se ognuno farà la propria parte. Ma con il decreto rilancio abbiamo messo le basi per la ripresa. Poi un appello, i prestiti alle imprese si possono erogare in 24 ore, ma il sistema bancario deve fare di più. Sono state rispettate queste tempistiche, ma mi giungono molte segnalazioni che in molti altri casi, e nella maggior parte dei casi, questo non sta avvenendo. Poi il decreto semplificazione, primo tassello della rinascita, che potrebbe arrivare in un paio di settimane. Il taglio dell'IMU per gli alberghi e altre misure sul turismo che arriveranno non appena sarà definito il piano di finanziamenti in sede europea, e l'invito agli italiani per la prossima estate. Colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini a fare le vacanze in Italia. Questo è il modo migliore per contribuire al rilancio della nostra economia in questa fase di emergenza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi della app Immuni, dei test sierologici. Nelle prossime settimane parleremo con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. Sempre sul fronte sanitario, tanti vaccini che si stanno testando nel mondo. Particolare interesse suscita quello portato avanti tra Oxford e un'azienda di Pomezia, vicino Roma, di cui qui a Effetto Notte abbiamo parlato tante volte con i protagonisti e torneremo a parlarne proprio domani. È talmente interessante che arrivano anche gli investimenti degli Stati Uniti, quindi non perdete anche la puntata domani di Effetto Notte. Intanto sulla politica italiana in Parlamento, bagarre tra maggioranza e opposizione sul sistema sanitario della Lombardia. Un'informativa che scatena la bagarre sia alla Camera che al Senato. Il premier Giuseppe Conte interviene sulla fase 2, ma in entrambi i casi le aule si riscaldano durante i dibattiti. A Montecitorio il deputato 5 Stelle Riccardo Ricciardi attacca sulla sanità lombarda, che ha gestito male l'emergenza Covid. In Cina hanno messo 10 giorni a costruire un ospedale, in Lombardia 6. L'ospedale per cui hanno speso 21 milioni per 25 pazienti. Ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse. Scatta la bagarre, il presidente Roberto Fico sospende la seduta, ma i battibecchi proseguono, come quello tra Giorgia Meloni, che critica le lacrime della ministra Teresa Bellanova, con Maria Elena Boschi che risponde sull'attacco ad una donna. A Palazzo Madama invece i toni si alzano quando parla il leader della Lega Matteo Salvini e alcuni senatori PD e 5 Stelle accennano ad una risata. Qua c'è gente che ride, mentre c'è a casa gente che non ha il pane da mangiare. Non è stato interrotto nessuno. Lei prima di ridere porti rispetti a chi è a casa e non ha una lira. Se ha tanto da ridere, vada al bar. Intanto il governo ipotizza le elezioni regionali il 13 settembre, insieme al referendum costituzionale e alle suppletive di Camera e Senato. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi torneremo sulla politica e in vista delle ulteriori riaperture, quella tra regioni dal 3 giugno continua, su quella della riapertura del 3 giugno tra le varie regioni, continua il confronto tra governo ed enti locali sotto accusa il decreto rilancio. Il governo corre ai ripari dopo le polemiche sulla norma del decreto rilancio che ha escluso alcune zone rosse dai fondi per le aree colpite dall'emergenza Covid. Il governatore del Veneto Zaia aveva annunciato un ricorso, quello della Campania De Luca aveva chiesto una correzione del testo. La viceministra all'economia Castelli assicura ora che nel passaggio in Parlamento gli aiuti verranno estesi a tutti i comuni che sono stati dichiarati zona rossa, come chiesto anche dal ministro degli esteri Di Maio. Le regioni nel frattempo vanno avanti con i piani per la fase 2. L'Emilia Romagna ha anticipato a sabato la riapertura di spiagge e stabilimenti balneari. Sul fronte degli spostamenti invece le Marche hanno deciso di consentire quelli al di fuori del territorio regionale, ma solo verso comuni o province limitrofe. In vista della ripresa della mobilità interregionale il 3 giugno, il ministro Boccia fa sapere che al momento le regioni considerate a rischio moderato sono 3, Lombardia, Umbria e Molise. Tutte le altre sono invece a rischio basso. Con la fase 2 intanto proseguono anche le riaperture dei musei. Quella degli Uffizi di Firenze è stata fissata per il 3 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero non vi è ancora una decisione ufficiale, ma il governo della Finlandia potrebbe vietare quest'estate l'ingresso nel paese ai turisti svedesi nell'ambito delle misure di contenimento del coronavirus. Per il capo dell'Istituto della Sanità finlandese, la differenza tra i due paesi nella diffusione del virus è un fatto. La Svezia, ha sottolineato l'epidemiologo seguendo quanto riportato dal Guardian, ha più casi di tutti i suoi vicini messi insieme e di questo dovrà tener conto il governo quando dovrà prendere una decisione. Sapete che è la notizia di ieri che la Svezia, in proporzione alla popolazione, al più alto tasso di morti per coronavirus. Negli Stati Uniti il virologo della Casa Bianca Fauci dice non è il momento di sfidare il destino e di ritirare completamente le restrizioni da coronavirus. Questo è l'ennesimo monito del virologo Anthony Fauci, mentre in forme diverse tutti i 50 stati americani stanno avviando la fase 2. E a New York intanto, dice il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, dice è ancora troppo presto a New York per decidere la riapertura delle scuole in autunno. In totale a New York dall'inizio della pandemia ci sono stati 360.000 casi di contagi e 29.000 vittime. Sempre sugli Stati Uniti, il presidente americano Trump ha annunciato l'uscita della Casa Bianca dal trattato con Mosca Open Skies, che consente ad americani e russi di sorvolare i rispettivi territori con strumenti di rilevazione elettronica per garantire che non stiano preparando attacchi militari. Quindi Trump è uscito da questo trattato con Mosca. Passiamo alla Libia, sale la tensione, Mosca trasferisce 8 jet da guerra negli aeroporti controllati da Haftar. Se saranno colpiti i nostri interessi, le conseguenze saranno pesanti, dice la Turchia, rispondendo alle milizie vicine al generale Haftar, che hanno minacciato di prendere di mira obiettivi turchi per il sostegno che Ankara sta dando al governo di al-Serraj. Sostegno che ha sortito l'effetto di allentare la stretta del generale su Tripoli, ma che non lo ha messo all'angolo, anzi, ora Haftar minaccia la più grande offensiva aerea di sempre sulla Libia e le sue parole prendono consistenza al diffondersi della notizia che nelle sue basi sono atterrati 8 aerei da combattimento provenienti dalla Siria, di epoca sovietica, dicono a Tripoli. Non è chiaro se sono rinforzi, inviati da chi, o se erano già nelle disponibilità di Haftar e rientrano dopo una revisione in Siria. Certo è che la tensione cresce. Bisogna cessare il fuoco, tornare a un processo politico di risoluzione della crisi sotto l'egida dell'ONU, dicono ora Mosca e Ankara, che cercano un bilanciamento pur restando su fronti opposti. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia, Cristina Carpinelli è andata per noi in zona Porta Venezia a Milano in questa fase 2 per verificare lo stato del cantiere della nuova pista ciclabile che collegherà il centro con Sesto San Giovanni nell'ottica di rendere maggiormente fruibile l'uso della bicicletta in questa fase 2. Siamo in zona Porta Venezia, Milano, in piena fase 2. Si lavora alla creazione di una ciclabile che dal centro arriverà fino a Sesto San Giovanni. Si tratta di un piano per evitare assembramenti sui mezzi pubblici e ridurre il traffico d'auto in una delle città più inquinate d'Europa, nonché una delle più colpite dal coronavirus. L'idea piace ai cittadini in modo trasversale tra nuovi e storici ciclisti. Super comoda, poi l'hanno appena fatta, si viaggia bene. Io in realtà arrivo da Mariano Comense, mi arrivo in macchina fino a Buenos Aires, ho la bici pieghevole nel baule, la carico giù e pedalo. 23 chilometri di nuovi percorsi ciclabili e altri 12 entro la fine del 2020. Non sono in realtà ciclabili vere e proprie, ma spazi riservati alle bici e sottratti alle auto, e questo sta scontentando una parte di residenti e commercianti. È stata fatta malissimo, tutti i giorni c'è qualcuno che litiga, dai corrieri a quelli che vanno in bici, e uno deve scaricare, se mentre scarica si trova con le bici che arrivano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere lo sport, parliamo di calcio. Se il calcio pensa di salvare solo gli uomini e non anche le donne, allora non si salva. Questo lo dice il Telegraph, quotidiano britannico, che si schiera dalla parte della CT, della nazionale italiana Milena Bertolini, convinta che le donne salveranno il calcio. Ora che da mettere in sicurezza c'è tutto il movimento, all'ultimo posto sembrano essere tornate le calciatrici, che sono state osannate fino a qualche mese fa, come rileva l'editoriale del giornale inglese. Sara Gama, capitana della nazionale italiana per l'Italia, lancia un grido d'allarme e dice: serve un protocollo ad hoc per la nostra Serie A e il professionismo. Con questo si chiude questa prima parte di Effetto Notte. Tra pochissimo gli ospiti, a partire dalla sottosegretaria, che dovremo raggiungere alla salute, Sandra Zampa. Tra pochissimo, mentre i vostri messaggi stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, vedo già diverse polemiche relativamente alla bagarre che c'è stata oggi in Parlamento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti dove veramente potete trovare la sintesi dell'intera giornata, delle cose principali che dovete sapere dall'Italia e dall'estero, e poi naturalmente vari argomenti da approfondire insieme agli ospiti, da chiarire, da scandagliare. Roberta Giordano naturalmente sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22. Ieri vi avevo dato la notizia relativa ad Apple e Google, che avevano annunciato la tecnologia di tracciamento del contagio da coronavirus è da oggi nelle mani delle autorità sanitarie di tutto il mondo, con cui abbiamo lavorato, hanno detto Apple e Google, e che decideranno come usarla. Vi ricordo che Apple e Google lavorano insieme a questo progetto dallo scorso 10 aprile. Il sistema è stato richiesto da ben 22 paesi, tra cui l'Italia, e questa ufficializzazione prelude quindi al lancio della famosa app, applicazione Immuni, per il tracciamento del contagio in Italia. La componente fondamentale è, l'elemento fondamentale è la notifica di esposizione al contagio, no? Chi la scarica sul proprio cellulare, se si avvicina a qualcuno che è positivo, riceve questa notifica di essersi avvicinato. Però che cosa userà quindi questo sistema? Userà, come anche da indicazioni europee che avevo ricordato in questi giorni, userà il Bluetooth, sarà volontaria, anonima e rispettosa della privacy. Sapete che tanto dibattito c'è stato intorno a questo elemento della privacy. Oggi c'è stato, sul tema della app Immuni, un incontro in videoconferenza con regioni, comuni, province, nel quale la ministra dell'innovazione Pisano ha detto l'app Immuni per il contact tracing dei positivi al coronavirus è in fase di sviluppo conclusivo. Quindi siamo insomma praticamente agli sgoccioli. La conferenza Stato-Regioni ha dato parere positivo sulla norma che deve regolare questa applicazione. All'incontro hanno preso parte anche il ministro degli affari regionali Boccia e i viceministri e sottosegretari alla salute, agli interni, all'economia. E naturalmente c'era la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, che saluto e ringrazio la disponibilità. Buonasera. Buonasera, buonasera. E, Zampa, prima di tutto, allora, ci fa una proprio un'istantanea della situazione generale dopo la ripartenza che lei vede in Italia da un punto di vista, appunto, diciamo, sanitario? Beh, forse mi sembra che ci sia un filo di confidenza di troppo. Io vedo sempre con una certa, diciamo, allarme usare la parola avere coraggio. Qui più che essere coraggiosi occorre essere intelligentemente prudenti, quindi uscire di casa, cercare di tornare a una vita il più possibile normale, ricordandosi però che il lockdown è cessato ma il virus invece c'è ancora. Il virus c'è ancora significa che noi dobbiamo mantenere dei comportamenti virtuosi che servono a tutelare ovviamente noi stessi prima di tutto e la salute ovviamente delle persone che ci sono care, possibilmente anche quelle che non conosciamo, cioè di tutti coloro che ci stanno intorno. Questo significa non partecipare ad assembramenti, perciò benissimo i ragazzi che si trovano, ma stiano un pochino distanti uno dall'altro, usino anche loro la mascherina e si ricordino che loro sono meno a rischio, anche se naturalmente nessuno di noi ha lo scudo che li protegge da tutto e che gli dèi avevano dato ad Hercules, ma il nostro tallone d'Achille sono soprattutto è la contagiosità che noi possiamo portare con noi, cioè portare in casa, in famiglia il contagio. Quindi per noi non è magari rischioso perché siamo molto giovani, invece per le persone che abbiamo a casa e soprattutto per i nostri nonni è molto più pericoloso. Oggi è uscito uno studio dell'INPS che conferma diciamo la pericolosità di questo virus sulle persone che noi chiamiamo anziane, ma qua parliamo di persone che vanno dai 60 anni in su, insomma, quindi tanto anziani non sono, direi. No, in effetti. Senta, sottosegretaria Zampa, Conte, fra l'altro, Presidente del Consiglio, oggi nell'informativa che ha tenuto alla Camera sulla fase 2, tra le altre cose ha detto che da lunedì prossimo partirà la campagna nazionale di test sierologici su un campione di 150.000 cittadini e nei prossimi giorni sarà avviata quindi anche la sperimentazione di questa app Immuni, la cui norma, dicevo, è stata approvata oggi, dato via libera alla conferenza. La elogio molto, a lei è una delle poche giornaliste che sa tutto. Ah, la ringrazio. È la notizia che Apple e Google hanno raggiunto l'accordo e che sui nostri cellulari è già presente un messaggio che si trova in impostazioni e questo messaggio ci dice che dobbiamo fare l'aggiornamento, che è un po' come mettere le ruote all'automobile, perché poi servirà a scaricare l'app, quindi ad andare in auto, insomma ad accendere il motore, e sono pochissimi quelli che lo sanno, glielo posso assicurare questo. La ringrazio, allora quindi a maggior ragione lo ribadiamo questa sera. E senta, quindi diciamo che tra i test sierologici che partiranno per il momento, diciamo, su questo campione di 150.000 persone e l'app Immuni, quindi si sta costituendo questo sistema di monitoraggio, dei vari elementi di questo sistema di monitoraggio e di prevenzione. Quindi per questa fase 2 è indispensabile. Assolutamente sì, è indispensabile ricordare anche che però il cosiddetto tracciamento, cioè il rintraccio dei possibili contatti che un contagiato ha avuto con persone che invece sono, diciamo, assolutamente inconsapevoli, no? Di poter avere eventualmente contratto il virus, avviene già ora. Non è che l'app è l'unico strumento che il governo, il Ministero della Salute ha messo in campo. Attualmente come avviene? Avviene con dei colloqui, cioè la persona contagiata quando all'esito del tampone risulta positiva, quindi confermata contagiata, perciò diciamo ammalata di Covid, a questa persona viene chiesto di indicare il nome e il cognome di tutti i contatti che ha avuto nelle ultime 48 ore. Tra l'altro segnalo questo punto per una ragione. Questo è la conferma che l'aspetto della privacy è molto più rilevante oggi di quanto non lo sarà con l'app, perché lei ha molto correttamente ricordato che l'app funzionerà con l'accensione di codici che vengono generati e che non corrispondono a dei nomi. Cioè il mio telefonino e il telefonino del contagiato contengono un codice che, una volta che il contagiato clicca e quindi dichiara di essere contagiato, mette in allarme tutti quelli che hanno il codice, che sono entrati in contatto con lui. Ma quel codice non è un nome e un cognome e non è neanche il numero di telefono. Perciò la tutela della privacy, che ogni tanto ancora qualcuno si ostina a mettere in discussione, è assai più alta di come è oggi, quando tu invece contagiato ti siedi oppure al telefono rispondi al tuo medico o alla ASL e devi possibilmente cercare di ricordare tutte le persone che hai incontrato nelle ultime 48 ore, ovviamente a loro tutela, e devi indicare il nome e il cognome e, se lo sai, il numero di telefono, quindi è una cosa molto diversa. Tuttavia questo sistema di rintracciamento esiste già, con l'app sarà molto più preciso, ma ovviamente sarà molto più preciso se i cittadini italiani decideranno che deve essere così, perché guardi, un aspetto che è importante, infatti, è che percentuale, loro, siete voi che decidete. Che percentuale di italiani è indispensabile affinché possa essere efficace questo? Mi lasci dire che più è alta e più avremo avuto successo. Sarà anche il segnale, secondo me, di un proseguimento, vogliamo dire così, di una riscoperta virtù civica degli italiani, che durante il lockdown sono stati straordinari, tant'è che lei sa che è uscito un articolo sulla stampa, credo americana o inglese, che sì, diceva che la sorpresa sono stati gli italiani, che non se l'aspettavano, ecco, insomma, da noi. Noi all'inizio abbiamo detto 60%, ma quando fu indicato 60% l'app veniva considerato l'unico strumento in campo. In realtà gli strumenti ora per convivere, come ho detto, col coronavirus sono molti di più, quindi noi pensiamo che è anche una percentuale più bassa. Ma quando si parte bisogna avere delle ambizioni serie. Io credo che se noi saremo capaci, e dobbiamo assolutamente essere capaci, di spiegare alle persone che si tutela la propria, loro così tutelano se stessi e tutelano gli altri, che poi può essere persino, come dire, una cosa, una volta tanto, una relazione di fiducia, no? Con che tempi, sottosegretaria Zampa? Spero, cioè, alla fine di questo mese noi dobbiamo partire con una sperimentazione. Oggi la ministra, lei ha ricordato che la ministra Pisano ha partecipato alla conferenza unificata, alla conferenza Stato-Regioni, e ha lì riferito dello stato dell'arte. Ha anche riferito che si deve partire con una sperimentazione entro maggio. Questa sperimentazione, quindi ormai ci siamo. Bisogna scaricare però prima quell'aggiornamento che Apple e Google hanno inviato a tutti i cellulari di quelli che hanno i sistemi, ovviamente Apple e Google, o Google. Sottosegretario Zappa, sinteticamente, i tamponi a che punto stanno? Sappiamo che fino a qualche tempo, qualche giorno fa, si era registrata nelle scorse settimane almeno una quantità insufficiente di reagenti, non tanto di tamponi. Può dire sinteticamente qual è lo stato dell'arte in questo momento? Guardi, proprio oggi il commissario straordinario Arcuri e anche il presidente Conte hanno ricordato che 45 aziende hanno partecipato alla gara per la produzione di reagenti. L'Europa anche ha partecipato, aveva fatto una call e ad anche lì è arrivata una quantità di reagenti che sono stati forniti anche all'Italia. Noi dobbiamo diventare autosufficienti, se 45 aziende partecipano è un bel segnale. Senta, invece vorrei fare una domanda: che cosa ne pensa della rissa che c'è stata oggi alla Camera con l'attacco di Ricciardi del Movimento 5 Stelle alla gestione della Lombardia del coronavirus? Proprio così un pensiero sintetico sulla situazione, su cosa ne pensa dell'attacco di oggi e della Lombardia stessa? È una ferita molto dolente e quindi io non credo che non credo che si debba. Intanto è troppo presto per tirare tutte queste conclusioni. Certamente bisogna avere più rispetto anche degli oppositori politici, quindi capisco però che anche da parte dei leghisti, dei nostri, anzi dei suoi, perché io non sono parlamentare in questo momento, occorre però avere l'umiltà di fare una riflessione. Perciò diciamo, le risse non sono mai belle, le provocazioni non dovrebbero avvenire da nessuna parte. Molto tempo fa, all'inizio di questa vicenda, ebbi modo di dire che bisognava però disarmare in maniera bilaterale, cioè che tutti dovevano smettere di fare polemiche. Quindi richiamerei tutti a un po' più di rispetto. Mi sembra che lì il tono, diciamo, del collega 5 Stelle sia stato sopra le righe. Senta, invece questo specie di pasticcio delle zone, di alcune zone rosse escluse dal decreto rilancio, visto che però Di Maio ha detto anche Crimi, ma adesso in Parlamento faremo delle correzioni, so che Zaia vuol fare ricorso, anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha detto una follia aver escluso, è stato un errore, una svista? Penso che quando si mette mano a una mole di lavoro come quella che hanno dovuto affrontare i colleghi dell'economia, delle attività produttive, della ragioneria, possa capitare, lo spazio in Parlamento c'è per le correzioni. Non anche lì, eviterei però, quando le dico, vede, c'è un eccesso di toni da parte di tutti e anche delle istituzioni. Abbiamo assistito in questi due mesi a troppe alzate di voce, di alzate di scudi, di accuse, e forse alcuni presidenti di regione ci hanno anche un po' costruito una, diciamo, parte politica di consenso presumibilmente a proprio vantaggio, ma non è quasi mai così alla fine. Senta, per chiudere, lei ha detto che ci sono buone notizie per i tifosi del calcio. Guardi, non mi faccia questa domanda perché finisce. Perché? Da fora mi odia, il ministro dello sport. Però le dico una cosa: allora, da donna, le dico questa cosa, in realtà dovrebbe riguardare tutti, donne e uomini. Sara Gama, che lei sa è la capitana della nazionale femminile, ha detto: ci aspettiamo pari tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini, che venga redatto quindi un protocollo ad hoc, perché quello dei dilettanti per noi non va bene, per riprendere. Poi attendiamo, ha detto, le risorse per tornare ad allenarci e vivere da professioniste quali siamo. Tra l'altro, poco fa leggevo il Telegraph, una dichiarazione del Telegraph, quotidiano britannico, che dice: se il calcio pensa di salvare solo gli uomini e non anche le donne, allora non si salva. Cosa ne pensa? Che hanno assolutamente ragione, mi batterò con loro, guardi, mi sanno dove trovarmi. Bene. Penso che sia ora che le donne si facciano avanti, perché sennò, come vede, veniamo sempre dimenticate. Contiamo su di lei allora, sottosegretaria Sandra Zappa. Grazie. Grazie e buon lavoro, quindi. Posso. Arrivederci. Grazie. Buona serata. Buona serata. Ci fermiamo brevemente, qua lo sapete, per una pausa di riflessione, di riposo, quello che volete. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, riflessioni, vi arrivano tante, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666, tornata come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte, non siate egoisti, ditelo anche a amici, parenti, amori, conoscenti e a tutti i congiunti di ogni ordine e grado, qualunque, insomma, in qualsiasi modo li intendiate. Roberta Giordano con voi, perché tutti un giorno non possono dire io non la sapevo, a proposito di una notizia importante, se ascoltano Effetto Notte. Abbiamo parlato sino a poco fa con la sottosegretaria alla salute Sandra Zappa, abbiamo toccato tanti argomenti, soprattutto all'inizio l'app Immuni, che dovrebbe partire per il tracciamento dei contagi, ci ha detto entro fine mese, e poi insomma vari altri aspetti che riguardano la fase 2. Adesso passiamo invece alla, tra pochissimo diciamo, più alla politica, al dibattito politico, mentre fra i vostri messaggi Fabrizio dice: scusi Roberta, ma che fine hanno fatto Colao e la sua task force, che immagino prendano fior di prebende? Allora, se prendono fior di prebende io non lo so, lo dice lei, lo dici tu Fabrizio, però Colao sapete che è a capo della task force che deve coordinare la fase 2, quindi visto che la fase 2 è iniziata probabilmente è dietro le quinte che sta coordinando. La delibera della Regione Lombardia d'inizio marzo, Il presidente Luca Degani, parole sue. Associazione di categoria che mette insieme circa 400 case di riposo. Chiederci di ospitare pazienti con i sintomi Covid-19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio. Colleghi, tornate ai vostri posti. Colleghi, colleghi, colleghi, dovete tornare ai vostri posti. Sospendo la seduta. E questa, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, è stata la scintilla che ha animato la giornata politica di oggi, cioè l'attacco, abbiamo brevemente accennato prima, del Movimento 5 Stelle per voce del deputato Riccardo Ricciardi alla sanità lombarda, cioè la gestione da parte della Lombardia dell'emergenza coronavirus. Insomma, Ricciardi ha praticamente sostenuto che chi attacca il governo sulle misure anti-Covid-19 propone il modello Lombardia. Avete sentito, grida si sono alzate dai banchi del centrodestra, bagara la Camera, tanto che il presidente della Camera Fico, avete sentito anche lui, è stato costretto a sospendere la seduta durante l'informativa del Presidente del Consiglio Conte sulla fase 2. Su questo saluto la nostra Barbara Fiammeri, bentornata cara Barbara del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Barbara, allora Meloni ha parlato la Presidente di Fratelli d'Italia, di precisa strategia della maggioranza. Allora farei sentire Meloni e poi anche Salvini sull'intervento di Ricciardi. Presidente Conte, io penso che lei sia perfettamente consapevole di quanto siano sbagliate le parole che in quest'aula sono state pronunciate dal collega del Movimento 5 Stelle. Però sono altrettanto convinta che lei non si alzerà in quest'aula per prendere le distanze, come correttamente ha chiesto la collega Gelmini. Perché vede, Presidente Conte, il Movimento 5 Stelle è il partito di maggioranza relativa della sua maggioranza. È il suo partito. Il collega Ricciardi non avrebbe fatto quell'intervento se quell'intervento con quei toni non fosse stato concordato anche con lei. Allora, adesso sentiamo anche Salvini, poi ci diciamo, Barbara, che cosa hai pensato, insomma, di questa reazione concordata, di questa strategia della maggioranza che sospetta Meloni. Sentiamo Salvini. Questo piccolo uomo, questo ominicchio, chiami uno dei medici in trincea e si sciacqui la bocca prima di parlare della sanità lombarda e dei cittadini lombardi. Barbara, quindi secondo te può essere stata una reazione, una rivincita del Movimento 5 Stelle rispetto a ieri alla mozione di sfiducia, alle due mozioni di sfiducia, una presentata da Emma Bonino da Più Europa, ma l'altra dal centrodestra compatto contro, sappiamo, il ministro della giustizia Bonafede, che però è andata a vuoto? Può essere. Ma sì, può essere tutto, anche se tra l'altro la mozione a cui tu fai riferimento era nel Senato, mentre il parapiglia oggi è avvenuto alla Camera. Sì, però i partiti sono quelli, insomma. Diciamo che i toni di Ricciardi sono stati molto veementi e soprattutto rispetto a una situazione, cioè al di là di poi quali saranno, e lo vedremo in futuro, le cause che hanno scatenato, come dire, che hanno incrementato, no, la diffusione del virus, però siamo appena usciti, diciamo, dalla fase più calda e in questo momento forse sarebbe bene che tutti quanti, sia la maggioranza ma anche l'opposizione, perché in alcuni casi l'opposizione non è stata tenera col governo rispetto ad alcune decisioni prese appunto sull'emergenza, si contenessero i toni, anche perché stiamo parlando di situazioni che spesso alcune scelte sono state prese in momenti come dire, difficili, insomma, molto, no, molto difficili, no? Così come fu criticato giustamente, ripeto, il governo nel caso della famosa scelta di chiudere con preavviso, però quando già tutti i buoi erano scappati, e il famoso 8 marzo, la notte tra il 7 e l'8, così. Insomma, anche sicuramente anche la regione Lombardia ed altre regioni avranno fatto degli errori, però insomma in una situazione come questa sfido a non farli. Detto questo, poi volevo soltanto dire all'ascoltatore che prima diceva sulla task force di Colau, sì, non prendono soldi. Ecco, quindi infatti ho detto pagati, io non lo so, non lo dice lui, non sono pagati, ha fatto un'ottima sottolineatura, visto che bisogna dire le cose come stanno, se l'avessero prese avresti detto, altrimenti sai che appunto stanno lavorando gratuitamente, al di là che lavorino bene o male a seconda del punto di vista degli ascoltatori, vedo critiche, vedo invece esaltazioni, un po' di tutto come sempre. Però dicevo, questa reazione di Ricciardi non è piaciuta neanche tra i banchi della maggioranza. Sentiamo per esempio Orlando del Partito Democratico. Sì, credo che sia oggettivamente un passo falso, perché al netto dei limiti che ci sono stati nella risposta lombarda al Covid, mi pare che oggi l'esigenza principale sia quella di creare un clima per andare a una approvazione rapida dei decreti che sono in itinere e possibilmente cercare di creare un punto possibile di unità anche con le opposizioni. L'effetto di questo tipo di iniziative rischia soltanto di marginalizzare quelli che nell'opposizione vorrebbero in qualche modo dare una mano e di rafforzare i falchi che hanno interesse a buttarla in rissa. Quindi parlato a 8:30 sulla 7 poco fa Orlando, quindi dice non solo sono condivisibili, non solo sono toni da evitare, ma tra l'altro rafforzano anche l'opposizione e i falchi, no, che vorrebbero insomma che attaccano il governo. I dadi ci presta il fianco praticamente. Beh, diciamo che certamente, allora, da un lato la Meloni che dice che insomma dietro tutto questo c'è una regia o quantomeno una condivisione da parte di Palazzo Chigi, è un modo anche, cioè l'idea è quella, in questo modo il governo ha spostato l'attenzione su altro, no? Cioè sullo scontro appunto rispetto alla Lombardia, e questo sarebbe un po' il retroscena che, di cui parla la Meloni. Dall'altro però non c'è dubbio che invece c'è anche un altro tema, e cioè che comunque il governo è in grandissima difficoltà con i provvedimenti che sono all'esame delle Camere a partire dal decreto liquidità. C'è parecchia amaretta nella maggioranza anche sul decreto rilancio. Quindi insomma, con l'opposizione diciamo mantenere dei toni, quantomeno evitare che ci siano questi muro contro muro e soprattutto andando a toccare dei nervi scoperti, sarebbe consigliabile. Detto questo, poi è evidente che insomma, come si dice in questi casi, ognuno si assume le responsabilità di quel che dice, e l'onorevole Ricciardi ha deciso di martellare con particolare veemenza su quel punto della Lombardia, sì. In particolare quindi con la Lega. Senti, brevemente, prima facevo la domanda alla sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, anche se non era esattamente diciamo il suo campo, no? Questa storia delle zone rosse che sarebbero state escluse, alcune zone rosse, alcune località dal decreto rilancio, però poi ho visto che insomma in corsa, in serata, Di Maio ha detto di estendere i fondi a tutti comuni diventati zona rossa. La vice ministra dell'economia Castelli assicura che il Parlamento interverrà con delle correzioni, perché oggi per esempio Zaia, presidente del Veneto, e De Luca, presidente della Campania, insomma avevano attaccato. Zaia addirittura parlava di un ricorso, no? Tu hai capito? Sì, come è potuto succedere? Cioè, diciamo che c'è stato un po' come spesso è avvenuto, anche mi ricordo quando ci sono stati terremoti sui comuni che erano stati toccati o meno e rientravano nell'area, allora si parlava dell'area del cratere, adesso parliamo di zona rossa. Allora il punto è anche questo, cioè è vero che alcuni comuni che erano zone rosse non sono stati inclusi nel provvedimento, nel decreto rilancio, però è anche vero che se i soldi, ma questa è una mia osservazione, se i soldi non vengono aumentati, significa dividere la torta in più comuni, cioè no? con più commensali, e quindi la torta, le fette diventano sempre più piccole. Allora, anche qui, ci sono dei comuni che sono stati, come dire, straziati più di altri dal coronavirus, e li abbiamo visti tutte le sere. E quindi lì ci sono delle priorità, però hanno assicurato dal governo insomma che arriveranno, sì, che ci saranno delle correzioni. Allargheranno anche ad altri comuni, appunto. Si lamentava Zaia, si lamentava De Luca però... nei giorni scorsi si sono lamentati i sindaci della Sicilia, quindi è chiaro che... Teniamo conto che tra l'altro i comuni in questo momento soffrono particolarmente, perché hanno anche loro un problema di mancate entrate. Infatti abbiamo ospitato De Caro, ma poi anche le regioni. Barbara, siccome ci dobbiamo lasciare, ricordo che il governo ipotizza le elezioni regionali, quelle comunali, il referendum costituzionale, le supplettive di Camera e Senato per il 13 settembre. Ora vedremo se sarà confermato. Poi un messaggio per te dal Presidente del Consiglio Conte, ti invita a fare le vacanze in Italia. Poi ci dirai prossimamente dove intendi andare, se vuoi farci sapere. Va bene. Ma guarda, lo sai Roberta che sto pensando? Sì. Allora, io che vivo a Roma, sì. e ancora non c'è la riapertura dei confini tra regioni, sì. mi sono già prenotata in alcuni musei dove, che hanno appena riaperto. Brava. Per andare a vedere delle cose che non vedevo da anni o non ho mai visto e che sono di solito interdette da file interminabili, prenotazioni mesi prima. E invece per cui... così, liberi come il vento, finalmente ci possiamo godere le opere d'arte che ci sono nei tantissimi musei italiani. Barbara, complimenti, ti devo lasciare, a ben presto. Barbara Fiammeri, un abbraccio. Ciao Barbara, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano naturalmente con voi, parliamo di rincari. Dopo le attese riaperture del 18 maggio sono anche partite le critiche e le polemiche, no? Sull'aumento di parte del carrello della spesa, ma anche di bar, ristoranti, parrucchieri. In primis a denunciare questi rincari è stato Codacons, però è intervenuta anche la Federazione Italiana degli esercenti, dei pubblici esercizi, che dice: queste sono speculazioni, attacchi, polveroni su di noi, in realtà noi dobbiamo sopravvivere. Allora, saluto intanto Aldo Cursano, che è vicepresidente vicario della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, della FIPE, quindi buonasera Cursano. Buonasera a voi, grazie dell'invito. E c'è Carlo Rienzi, presidente di Codacons. Buonasera Rienzi. Buonasera a voi. Allora Rienzi, molto sinteticamente, così riusciamo a fare vari passaggi, ci dice voi avete denunciato per primi i rincari. Sì. Sì. Avete avuto modo, quindi, ma si parla di grandi, insomma, di rincari diffusi oppure di alcune specificità? Allora, sì. Diciamo subito che abbiamo notato un atteggiamento contrapposto di una serie di commercianti che ha capito che non è opportuno alzare i prezzi e che afferma di volerli tenere fermi o addirittura ribassarli. Addirittura una compagnia aerea li ribasserà per attirare la gente sui voli, in turismo, eccetera. Perché e poi c'è un altro tipo di commerciante invece che continua a dire: io ho dovuto mettere le cose anti-Covid, io ho fatto un sacco di spese, io non sono stato chiuso. La sanificazione, i plexiglass, cosa che è inammissibile, perché quello deve chiedere il sostegno dello Stato, ma non può chiedere al consumatore di sostenerlo, perché il consumatore deve andare a comprarsi i pomodori per mangiare anche lui e quindi non può sostenere i commercianti. Chiaro Rienzi. Cursano, quindi sentiva Rienzi, allora ci sono ragioni da una parte e dall'altra, nel senso che magari i commercianti che dicono dobbiamo mettere in atto una serie di misure che ci costano, anche il distanziamento per esempio nei ristoranti e nei bar ci fanno avere meno coperti eccetera, però dall'altra è chi comunque ha subito la crisi, sono più o meno tutti, o quelli che hanno gli stipendi comunque non li possono aumentare a loro volta, quelli che hanno perso addirittura il lavoro e hanno ancora meno soldi. Come si riesce a trovare un equilibrio? Cursano. Con grande senso di responsabilità, non si può giocare sulla pelle di persone e aziende che dopo due mesi buona parte di queste non apriranno. Chi lo ha fatto lo sta facendo con grande senso di responsabilità per dare un segnale di fiducia. Ci stanno rimettendo e le parla uno che con le sue attività insieme a tanti colleghi lo abbiamo fatto veramente per accendere le luci e dare un po' di speranza in un momento di grande buio. E quindi a fine giornata ci si rimette, si parla di 70-80 caffè, parlo di Firenze, parlo dei centri storici. E quindi fare questo sacrificio per essere poi maltrattati in questo modo fa profondamente male, perché si parla di persone che sono consapevoli della situazione. La sfida è riportare le persone a vivere la città, i nostri luoghi, in sicurezza e serenità. Però Cursano, questi aumenti denunciati da Codacons ci sono o non ci sono, quindi? Nei pubblici esercizi, nei bar, nei ristoranti, i parrucchieri. Io non sono nelle condizioni di dire che ci sia delle eccezionalità, ma io posso attestare che su città che abbiamo monitorato i prezzi sono non solo i medesimi, ma in tantissimi colleghi si sta usando la leva della promozione e del prezzo, e almeno così glielo dico, del 0,50 il caffè in talune attività, perché sappiamo benissimo che questo è l'unico strumento per avvicinare. Se poi a livello nazionale su 300.000 attività qualcuno ne ha individuata 5, 3 qua e là, e andare a far passare la categoria in questo momento, ripeto, di tragedia, di difficoltà, di angoscia, come speculatori o come approfittatori, è un qualcosa di estremamente scorretto, che ha ferito al cuore chi, come me e migliaia di persone, hanno chiaro il grande senso di responsabilità di un momento tragico. Non ci si può giocare, insomma, per un po' di visibilità a chiaro. Fare queste situazioni che hanno ferito al cuore. Chiaro, Cursani. Rienzi, quindi è una minoranza? Voi avete un elenco di segnalazioni? Abbiamo un elenco lunghissimo. Non bisogna fare nulla sulla pelle di nessuno, per carità, dei commercianti meno che mai, ma nemmeno sulla pelle dei consumatori. Quindi, per riportare le persone nella città, serve ribassare i prezzi. Chi li ha aumentati quando le merci all'ingrosso non sono aumentati? Fa speculazione, e non si può avere pena degli speculatori. Bisogna indicargli le strade giuste, e le loro organizzazioni dovrebbero saperlo fare, cioè dirgli che devono chiedere i benefici di legge, che vengono dati finalmente con più velocità, e con quello fare fronte alle spese e ai mancati introiti, non sfilando dai portafogli dei consumatori i soldi che i consumatori devono utilizzare per campare, perché anche loro sono stati 3 mesi senza stipendio, anche loro sono stati 3 mesi senza, che non hanno manco la cassa integrazione, non ne parliamo, non è mai arrivata, anche loro sono stati 3 mesi senza una lira, un euro che è entrata dentro le loro tasche. Chiaro, Rienzi, un'ultima battuta a Cursano, quindi se arriveranno queste segnalazioni, voi da FIPE potrete dire a questi esercenti: guardate, cerchiamo di stare nei prezzi nella media di prima, perché questo può aiutare ulteriormente ad avvicinare la clientela. Si può fare, Cursano? Il signor Renzi ha indicato Firenze l'aumento del 21.5. È una bugia. Non c'è un'attività che ha adottato un aumento. Io, nella media che abbiamo fatto, nelle 300 attività, invece i prezzi del caffè nella media sono diminuiti, perché c'è chi lo fa 80-50 come strumento promozionale, e andare a dare questi messaggi è scorretto, mi creda. È chiaro che noi prendiamo le distanze nei confronti di chi in questo momento, ma siccome siamo padri di famiglia, viviamo la situazione e sappiamo bene la situazione economica, noi stiamo usando nei ristoranti e nei pubblici esercizi la leva della fiducia. Bene. E dare questi segnali fuorvianti è scorretto. Mi creda, lo dico con il cuore, uno che fa questo lavoro dalla mattina alla sera. Benissimo, allora cerchiamo, Cursano, siccome dobbiamo lasciarci, di agire tutti con il cuore, anche con la correttezza, naturalmente, capendo gli uni e gli altri, e cercando, insomma, questa fase è difficile, di trovare un equilibrio tra pubblici esercizi, tra negozianti, commercianti, eccetera, e la clientela, tutti insomma più o meno nella stessa barca. Grazie a Carlo Rienzi di Codacons, grazie Aldo Cursano, vicepresidente vicario di FIPE. Ci sentiamo tra pochissimo.